Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, buonasera, buona domenica a tutti, buona ultima domenica di campionato. Oggi siamo in una situazione bellissima e stiamo per cimentarci in un'impresa sportiva senza precedenti, per cui chiedo subito il vostro aiuto. Situazione bellissima è il Salone del Libro di Torino, la città dello scudetto naturalmente, che si celebra a poche centinaia di metri da qui. L'impresa sportiva in cui stiamo per cimentarci con i miei ospiti, che il pubblico qui davanti vede, voi no, ma tra poco vi dico chi sono, è che oggi parleremo 2 ore e mezza di sport senza aver visto nulla e senza poter vedere nulla. Quindi è meraviglioso tutto questo e chiedo subito l'aiuto ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde da qui fino alle 19. Non abbiamo visto un metro del Gran Premio vinto da Maldonado davanti ad Alonso. Non abbiamo visto un istante della festa scudetto della Juventus che sta vincendo 2-0 sull'Atalanta, né della domenica dei fazzoletti di San Siro, dove c'è il Milan che sta pareggiando 1-1 con il Novara, con questa montagna di addii. Non vedremo nulla. Vi invitiamo, vi preghiamo, vi supplichiamo di aiutarci a raccontare questa domenica di sport. Ad esempio, io voglio sapere, voglio che qualche ascoltatore ci chiami dicendomi come sta andando, inizia alle 16, lo so, il Manchester City di Roberto Mancini. Per fortuna in questa impresa sportiva c'è il mio compagno di viaggio di sempre, Andrea Zorzi. Ciao Carlo, ben ritrovato. Un po' imbarazzato oggi perché? Ci vedono e meno male, li guardiamo negli occhi e facciamo anche girare il microfono, così almeno qualche intervento ce l'avremo. Qui accanto a me anche Giuseppe Di Piazza, editorialista del Corriere della Sera, nostro amico e autore di un libro di cui tra poco parleremo, e tifoso della Roma, come se non bastasse. Grazie, non bastasse. Grazie, sì. Direttore. Sì. Senti, ti chiedo subito, prima dei quattro canti di Palermo, libro che hai scritto, l'ultimo canto di Luis Enrique, struggente ma anche, secondo me, un po' comico, se vogliamo, perché dopo un anno in cui ha fatto allenatore adesso si prende un anno sabbatico. Roma trita tutto, la tua Roma trita tutto. Beh, il secondo anno sabbatico, uno l'ha già fatto alla Roma. Ah, uno l'ha già fatto alla Roma. E adesso si fa quello a casa sua, ma insomma. Perché no, secondo me si è rilassato. Ma sì, dai, ha sperimentato a spese della Roma. Chissà se Abramovic offrirà anche a Luis Enrique un contrattone come quello che Guardiola ha rifiutato. Abramovic è un uomo imprevedibile, però ben attento ai suoi soldi, quindi ha offerto a Guardiola, mi pare, non a Luis Enrique. No. Ma perché dice anno sabbatico alla Roma? Ma perché lui aveva bisogno di crescere, quindi forse non è stato un anno sabbatico, ma è stato un anno di aggiornamento professionale per lui. Aveva bisogno di crescere, di sperimentare alcune cose, le ha provate un po'. Secondo me facendo piccoli danni qua e là, che ci metteremo un po' di tempo a ricostruire. Lui si è presentato molto bene, con grande dignità, è andato via con un'enorme dignità, diciamo, da un punto di vista umano e personale niente da ridire su Luis Enrique, ma sicuramente da un punto di vista sportivo poteva fare di più, ma forse non sapeva fare di più. E anche la conferma che allenare a Roma è particolarmente complicato. Sì, una squadra che ha un certo orgoglio e una grande storia, una storia spesso da sconfitta, quindi con tutta l'urgenza che hanno gli sconfitti di riportarsi in pari con la storia. Sì, ha a che fare con la storia, ha a che fare con la città, con i tifosi, con la Lazio, con le radio private, con la modalità con la quale Roma si segue con tanto amore e interesse la propria squadra. Tifosi pacati, civili, che sanno discutere, che non ascoltano mai le radio, non Radio 24, ma nemmeno le privatine del tifo, quindi è una, insomma, gente evoluta da un punto di vista, noi dei tifosi evoluti. Ma su questo non c'è dubbio, però anche, insomma, Luis Enrique stanco, distrutto dopo questo anno romano che tu dici è stato anno sabbatico, ma Montella era così diverso un anno fa quando l'avete mandato via? Montella, e adesso che lo ripigliate? Aveva bisogno di fare anche lui esperienza, l'ha fatta al Catania, ha fatto secondo me un anno straordinario con quello che aveva, le forze che aveva, e adesso forse con grande stima e grande preoccupazione dico sarà un buon allenatore per la Roma. Senti, direttore, consigliamo Luis Enrique a Zamparini al Palermo? Beh, sarebbe un incontro strepitoso, cioè da telecamere, da reality, cioè bisogna tenere lì fissa cioè l'incomprensione va in scena tutti i minuti con Panucci che potrebbe fare da traduttore. Esatto. Cioè, perché Christian è un inglese, uno spagnolo fluente, strepitoso, potrebbe essere interprete adatto. No, parlando di Palermo, perché volevo arrivare ai quattro canti di Palermo, cioè il libro che hai scritto e che tra poco ti dovremo salutare perché andrai a presentare con Beppe Severgnini qui al Salone del Libro. Tra l'altro, vi dico, lo dico qui al pubblico presente, oltre che a tutti i nostri ascoltatori, dovete sapere che chiacchierando prima con Giuseppe Di Piazza ho scoperto che non solo l'autore del libro ma anche l'autore della copertina su cui sta, a mio parere, poi ditemi voi, una delle donne più belle del mondo. Raccontaci questa storia. Beh, la storia è che io sono un giornalista abituato a fare giornali, riviste, quindi con grande attenzione all'immagine ho lavorato per gli ultimi 10-12 anni su testate con forte componente fotografica. Quando ho deciso di buttarmi nell'avventura letteraria ho pensato in maniera tonda al prodotto, quindi anche a un'immagine che fosse rappresentativa, e allora ho provato a farla io la copertina, nel senso utilizzando non le foto che ho fatto io, sono anche fotografo ma non ne parleremo in questa sede, utilizzando la foto di un grandissimo maestro che è Ferdinando Chan, che aveva a sua volta fotografato nell'87 Marpessa, che era una delle donne in quel momento, una delle 5-6 top del mondo, ed era anche la fidanzata di Shanna in quel momento. Insomma, sono riuscito a costruire una copertina ottenendo l'autorizzazione sia da Marpessa che da Shanna di cambiare un po' la foto originaria, che è una rarità assoluta. Quindi io ringrazio entrambi nel mio libro per la generosità che con cui hanno concesso questi cambiamenti. Devo svelare che tra poco anche Andrea Zotti scriverà un libro. Grazie di averlo svelato anche a me. Grazie di averlo svelato anche a me. Stavi già pensando alla copertina, stavo vero? Stavo già pensando alla copertina. Mi veniva in mente Lorenzo Bernardi, che non è esattamente la stessa cosa, ma o Julio Velasco, Andrea? Beh, c'è da scegliere. Io mi prendo sempre Marpessa. Io sto con Giuseppe Di Piazza. Lo leggo. Stai sempre dalla parte buona, vero? Ma senti, invece, oltre a questa copertina cosa c'è? Beh, c'è un romanzo, è un noir, il genere potrebbe essere quello del noir, ma è un noir d'ambiente con molto sentimento dentro, con grandi storie d'amore, storia di un giovane giornalista nei primissimi anni Ottanta in una Palermo insanguinata dalla guerra di mafia. Questo ragazzo, un po' vagamente autobiografico perché io facevo il cronista di Nera in quegli anni a Palermo, attraversa quattro storie nere della sua città che hanno ognuna come protagonista una donna. Lui cerca di sopravvivere all'orrore che era la guerra di mafia, che vi posso testimoniare, posso anche raccontare tanti di quegli aneddoti veri da far impallidire i nostri ascoltatori, e insomma questo ragazzo prova a sopravvivere, sopravvive con le armi che ha a disposizione, che tutti i ragazzi hanno a disposizione, sono l'amore, poi il sesso. Curiosità tecnica, come sei riuscito a coniugare i due impegni, quello del giornalista, quello dello scrittore, quando hai scritto? Di notte, di sera, nei viaggi? All'alba. Io sono un insonne per fortuna, e quindi scrivo all'alba, scrivo nei weekend, ho scritto durante tutti i miei viaggi. Io quando viaggio scrivo, ovunque, con qualunque mezzo riesco, io viaggio e scrivo. Senti, cosa ne pensi invece dei tanti libri che nascono sullo sport? C'è il libro di Del Piero e poi ne parleremo con Maurizio Corsetti, che l'ha scritto con il capitano della Juventus. Ieri mi è arrivata notizia di un instant book che Antonio Conte scriverà dopo questo scudetto. Ha fatto molto rumore il libro di Ibrahimovic, come ben sai, non starei a raccontare di quello di Cassano, eccetera eccetera eccetera. Quello di Agassi bellissimo, quello di Agassi bellissimo, quello open di Agassi, è stato consigliato da Andrea Zanzi, è considerato uno dei 10 migliori libri nelle ultime decadi. Sì, scritto peraltro da una penna molto importante del giornalismo e della letteratura americana. Quindi premio Pulitzer, premio che Pulitzer. Ha accettato di non comparire se non nei saluti finali di Andrea Agassi, che dice: io questa cosa l'ho scritta solo perché mi ha aiutato questo grande scrittore. Ovviamente Andrea ha delle storie straordinarie da raccontare, un personaggio unico che ha fatto dei passi in avanti anche nell'analizzare se stesso, però sembra essere tra gli libri sportivi veramente un grandissimo da leggere. Sì, c'è un altro libro bellissimo che è La squadra perfetta di Giancarlo Dotto sul Milan di Sacchi, che è uscito da Mondadori qualche anno fa, che era un altro bellissimo racconto corale di un'impresa pazzesca, un'impresa visionaria che era quella di Sacchi. scritta anche lì con una penna che è molto particolare. Guarda che anche nei libri sportivi occorre fare distinzioni. Gli instant book sportivi hanno, diciamo, la leggerezza o l'importanza di un libro scritto in poco tempo, ce ne sono altri che sono un po' la fine di un lungo percorso e in quanto tali sono bellissimi. Ce ne sono individuali, di squadra, ovviamente come nella letteratura ce ne sono alcuni che sono molto belli, altri sono operazioni un po' più commerciali. Comunque sono libri che parlano alla passione, al cuore di tutti noi, perché poi ognuno sceglie quale pezzo del cuore vuole, ma insomma un libro di Antonio Conte in questo momento, che so che farà Rizzoli, o il libro di che è stato Ibrahimovic, un successo clamoroso, oppure il libro in questo momento di Alessandro Del Piero, sono tutti pezzi della nostra storia, poi al di là di come vogliamo viverlo da tifoso o non da tifoso, però componiamo un mosaico che è il mosaico delle passioni. Quindi... Verissimo, verissimo. Salone del Libro di Torino, Andrea Zorzi vicino a me, Giuseppe Di Piazza qui vicino a me, tanto pubblico presente, nessuna immagine, non vediamo nulla, quindi vi prego raccontateci quello che vedete, quello che succede, raccontateci questa domenica dei fazzoletti che sembra perfetta, stavamo parlando di libri e non solo dei quattro canti di Palermo. Ebbene, in questa domenica molto letteraria segna Del Piero il gol del 2-0 della Juventus sull'Atalanta, ma questo è accaduto ancora nel primo tempo. Vedo una tifosa che fa il pugno con la maglia turchese, segna Del Piero, ma segna anche Inzaghi, segna anche Inzaghi in questa domenica degli depressa totale per questa, La partecipazione della maglia azzurra è inferiore, la partecipazione della maglia turchese, la signora con la maglia turchese è inferiore, però ci sta, no, direttore? È una bella sigla, Dai, una bella sigla. Villarzilla del Milan che saluta in blocco. Confessiamolo, non avendolo visto, come Carlo dice da un po' di tempo, ci immaginavamo che abbiano fatto segnare apposta Inzaghi. Ma ci sta, Andrea, abbi pazienza, no? Fair play. Vabbè, magari è un gol bellissimo, straordinario, un'impresa. Dunque, adesso vi leggo la cronaca del gol, che è tutto quello che posso raccontarvi. Milan in vantaggio, segna Inzaghi con uno splendido destro dopo stop di Petto. Ma cosa state dicendo? Ma che meraviglia! Vabbè, chiediamo conferma, giusto? A chi l'ha visto anche in TV, vale anche la televisione, non solo lo stadio. Ma tu dicevi una cosa, Giuseppe Di Piazza, molto, molto pertinente, cioè alla fine questi addì, cioè il Milan con Villarzilla che saluta in blocco, vanno via tutti, diaspora, c'è chi dice in disaccordo con Allegri, ma insomma se è in disaccordo con Allegri può anche starci, perché il senatore, tu lo sai bene, con Francesco Totti sono molto pesanti da gestire e qualche volta tendono a fare anche il mestiere dell'allenatore. Però in tutti questi addii, in tutti questi fazzoletti che sventolano in questa domenica, c'è molto di letterario, perché diciamo la verità, questi giocatori, non voglio scomodare Nick Hornby su Febbra 90, questi giocatori e Andrea Zorzi stesso, insomma, rappresentano dei pezzi della nostra storia, no? Del Piero ha cominciato a giocare nella Juventus 19 anni fa, dimmi Andrea Zorzi. Io ho smesso a 33 anni, E quindi rispetto a questi giocatori importanti che rimangono a lunghissimo in una squadra, ne sono la bandiera, ma come tu dicevi hanno anche il peso della loro personalità. È stata la bandiera della nazionale. Esatto, e quindi vista nella cornice più ampia della squadra, del progetto della squadra, non sempre restare attaccati a una bandiera è la scelta migliore da fare. Io ho smesso a 33 anni. Beh, ho tolto il disturbo. Intanto il tuo sport è diverso. Il calcio in questo, come sai, è molto più mercenario, è molto più senza cuore, quindi le bandiere sono una rarità. Rimanere legati a una squadra come lo è rimasto, io parlo di Francesco Totti, che è sicuramente un caso unico e somiglia un po' Del Piero a Totti per la durata di un amore. Beh, insomma, sono casi rarissimi. Inzaghi, che ha cambiato tante maglie, alla fine ha ormeggiato la propria barca dei sentimenti al Milan. Poi quando loro vanno via, certo che cercano di giocare, tentano di allungare una carriera disperatamente, perché poi... Dall'esterno se ne è parlato anche in altre occasioni con Carlo. Io non sono sempre schierato in difesa delle bandiere, perché talvolta dovrebbe essere prevalente l'interesse della società, che in qualche modo si immagina un futuro, e non sempre questo futuro permette la condivisione della bandiera, che magari ha un po' di minuti nelle gambe, ma non può diventare il punto sul quale appoggiare l'intera stagione. Dopodiché se ne parlava su Guardiola, di personaggi che hanno avuto un grandissimo successo, però Guardiola è nato sempre e solo nel Barcellona, Totti ha vinto moltissimo anche con la nazionale, ma ha giocato sempre sulla Roma. Chissà cosa avrebbe fatto Francesco. Avrebbe stravinto in giro per il mondo sicuramente, se avesse accettato le offerte di Real Madrid del 94, sì, cioè 93-94 mi pare. Sarebbe stato all'inizio della sua carriera, il Real Madrid lo voleva, ma insomma sarebbe stato un grandissimo campione internazionale, non lo è stato, non ha mai vinto il pallone d'oro, non ha mai portato a casa trionfi personali se non quelli collettivi come uno scudetto e una Coppa del Mondo, insomma. Però non è poco, cioè, non è pochissimo. Il rigore contro l'Australia ce lo ricordiamo, come no? Lo sguardo di Totti al 94esimo negli occhi del portiere australiano, cioè io non... L'Italia tremò quel giorno. Hai brividi ancora adesso. Esatto. No, insomma, però le altre bandiere, secondo me, vanno gestite, cioè vanno gestite cercando di compenetrare la grande gloria e la grande esperienza di una bandiera con i giovani. Quindi bisogna farli crescere insieme. L'esperienza che è stata fatta quest'anno alla Roma è interessante, in cui ci sono, diciamo, un paio di chiocce e moltissimi pulcini. Ora, questi pulcini sono stati utilizzati in maniera un po' dissennata, secondo me, però va bene, cioè alla fine è un modo di mischiare due culture, due esperienze, due modi di far calcio. No, che poi dicevo, questi campioni sono in qualche modo cresciuti con noi, no? Perché facciamo l'esempio del Piero, che può essere che è pari quello di Francesco Totti. Insomma, Del Piero gioca nella Juventus da 19 anni. Allora, 19 anni fa, fate voi i conti di quanti ne avevate, fate voi i conti di cosa avete attraversato, mettetevi nei panni di un tifoso che non è necessariamente Nick Orby, che ha scritto questo libro meraviglioso, costruendo la sua storia intorno all'Arsenal. Però questi campioni per i tifosi rappresentano non solo un giocatore, ma una parte della loro storia. Fidanzate, amici, amanti, momenti, intrecci, uscite, storie, ricordi. E tu lo sei stato, Andrea? Quindi... Sì, io credo che uscite ragazze, ho capito, da parte uscite ragazze. Uscite ragazze. Esatto. Io credo che in alcuni casi alcuni eventi sportivi permettano di avere un filo al quale agganciare i ricordi. Certo. E allora l'anno te lo ricordi perché era la finale della Spagna o del 2006. Che è facile inquadrarlo cronologicamente, ci aggancia emozioni personali che sono collegate poi a dei simboli, e questo permette di ricostruire un po' più facilmente i propri percorsi memorici. È così, no? Di memoria. Vero. Bellissimo. Concordi? Bellissima, cioè, sintesi. Per, tu, per esempio, con Totti avrai qualche momento legato a Francesco Totti? Beh, 17 giugno del 2001, stadio olimpico, lo scudetto e un bellissimo gol di Totti e poi quella passeggiata per tutta la città che è indimenticabile. Sì, va bene, insomma, tante altre cose. Quando lui ragazzino si era fatto male, entrò all'Olimpico con le stampelle, aveva 18 anni, andammo tutti intorno a lui per chiacchierare con questo giovane fenomeno che sapevamo già essere un predestinato, come... Certo. E lui si schermiva, molto tenero, molto, anche molto timido ancora. Sarebbe una storia da libro? È una storia da libro? Sì, da libro, non di barzellette però. No, lascia stare le barzellette. No, però da libro sì, dai. No, cioè, è una simbolo, bella storia. Simbolo di metà di una della città eterna. Sì, era scritta un collega della Gazzetta, ha scritto un bel libro su di lui, e mi pare sia Massimo Cecchini che l'abbia scritto. E, insomma, però aspettiamo che questa storia si chiuda. Sì, aspettiamo. Perché aspettiamo. No, a differenza dei milanisti, lui va avanti. Lui va avanti, ha ancora nelle gambe alcuni gol che deve fare per arrivare dove deve arrivare nella classifica generale. E deve essere utilizzato con parsimonia, perché non è un calciatore a cui a quest'età puoi far fare il trequartista di movimento. Quindi Luis Enrique ha sbagliato, perché lui è un centravanti boa che l'età giustifica. Andrea, arrivano i pizzini. Pizzini. I pizzoni. Un foglio con l'aggiornamento di Giorgio De Luca, che ringrazio in redazione insieme a Pietro Lacorte in regia. Tecnologicamente avanzatissimo. Tecnologicamente avanzato, scritto a penna rossa. L'Atalanta ha accorciato a Torino 2-1 e il Manchester City sta vincendo 1-0 con il Queen's Park Rangers, e con questo risultato Roberto Mancini diventerebbe campione d'Inghilterra, che è una cosa straordinaria per il calcio italiano. Non so se condividete, immagino di sì. Sì, sì, ho visto il derby, è stato molto bello, lui l'ha giocato bene, è stato un bel campionato che sembrava perso per lui, è stato capace di rimetterlo a posto, insomma. Eh sì, nonostante Balotelli, ma questa è un'altra storia, di forse di un altro libro. Io ringrazio Giuseppe Di Piazza che deve andare a presentare il suo di libro i quattro canti di Palermo tra poco qui al Salone del Libro. Mi tengo stretto naturalmente Andrea Zorzi, anche perché dopo il GR continueremo a parlare di uno sport, quello di oggi, che non abbiamo assolutamente visto. 800 24 00 24, aiutateci voi a ricostruire ciò che sta succedendo nella festa della Juventus, festa Scudetto, la domenica dei fazzoletti pieni di lacrime di San Siro, il Gran Premio vinto da Maldonado e la Williams che torna a vincere una corsa 100 anni dopo, perché l'ultima volta era stata nel 2004 con Montoya in Brasile. Fate un po' voi, secondo posto per Alonso. Tutto questo l'abbiamo saputo, ma in realtà non abbiamo visto nulla. Grazie a Giuseppe Di Piazza, ci sentiamo dopo il giornale radio. Ecco che torniamo con A Tempo di Sport in diretta dal Salone del Libro di Torino, con me, qui vicino a me, Andrea Zorzi, una platea qui di fronte e ascoltatori che io invito. Noi abbiamo un sogno oggi, che è quello di avere degli ascoltatori che siano cronisti e che ci raccontino, tanto per cominciare, la festa della Juventus che è in atto, poi la domenica dei fazzoletti pieni di lacrime dei rossoneri, del Milan con i gol di Inzaghi e Flamini battuto il Novara, ma che ci raccontino il Gran Premio, che ci raccontino la tappa del Giro d'Italia che si è appena chiusa. Qui in attesa degli ascoltatori rimediamo tra un istante con Piero Augusto Stagi. Ma chi ci racconti cosa sta facendo il City, come sta giocando il Manchester City di Roberto Mancini, che sta vincendo 1-0 e se vince questa partita con il QPR si porta a casa il titolo. Insomma, raccontateci voi che la state guardando questa domenica di sport e poi noi ne parliamo, Andrea. 800 24 00 24, facciamo del nostro meglio. Intanto c'è Piero Augusto Stagi che ci racconta come è finita la tappa del Giro d'Italia. È finita molto molto bene, una nuova vittoria italiana dopo tanta attesa. Facciamo una doppietta oggi. Domenico Pozzovivo ha vinto in perfetta solitudine sull'altopiano del Lago Laceno, è scattato a 5,5 km dal traguardo nel punto più duro, nel momento in cui gli uomini della Liquigas, gli uomini di Ivan Basso, stavano facendo l'andatura per non far scattare nessuno. Sylvester Smith è stato spettacolare e di fatto non è scattato nessuno, e devo dire che non hanno risposto all'attacco di Domenico Pozzovivo. In una gara a tappe, come tu puoi immaginare, ci sono anche giochi di intese e alleanze. Penso che dopo questa vittoria il team Colnago di Reverberi avrà un occhio di riguardo, si metterà anche un po' al servizio della Liquigas. Diciamo che in questa prima settimana la Liquigas di Basso si sta anche facendo delle simpatie. Ho visto anche delle buone azioni di gentleman agreement anche coi Garmin dell'attuale maglia rosa Reiser Dalla. Trattative in corso, vedo Andrea Zotti che annuisce. Mi piace molto oggi questa... una bellissima vittoria di Pozzovivo, che coglie la sua prima vittoria al Giro d'Italia. È stato molto molto bravo, perché l'arrivo non era adatto a lui, perché lui è uno scalatore puro, è un corridore mignon di 1,65 m, leggerissimo, che riesce veramente ad azionare lunghi rapporti su pendenze molto aspre, ma poi qui l'arrivo era praticamente su un altopiano, in pianura, gli ultimi 4 chilometri interminabili. Diciamo che lui ha fatto più fatica in pianura che in salita, però è riuscito a... Pronto? Ecco, no, ti stavamo ascoltando mentre ci arriva un altro pizzino di Giorgio De Luca. Poi gli scritti a mano con Biro Rossa per il pareggio del QPR sul campo del Manchester City. Provate a indovinare chi ha segnato, voi tifosi della Lazio. C'è qualche tifoso della Lazio qui? No, neanche uno, meno male, perché ha segnato Dibril Sissé. Immaginatevi un po', Sissé che dà un dispiacere a Mancini al momento. Questo 1-1 non basta. Dimmi, Andrea. Posso chiedere una cosa a Piero Augusto? Sì, certo. Piero Augusto, mi piace molto la tua lettura strategica di movimenti di squadre. Quali sono quindi le squadre che si considerano dei nemici con i quali non bisogna assolutamente trattare? Beh, intanto i nemici si fanno lungo il percorso e lungo la strada. E, diciamo, in questa settimana, in questo momento, appunto il team Colnago oggi ha avuto il via libera, perché con ogni probabilità questa settimana ha lavorato. Infatti ti confermo che quando c'erano delle fughe, quando c'era da mantenere o andare a riprendere una fuga, il team di Reverberi si è messo sempre a disposizione. Quindi oggi, quando hanno visto scattare tutta la Liquigas, era in testa, c'era Smith con dietro Basso e dietro Basso Eros Capecchi, quindi tre uomini di Liquigas Cannondale, quando hanno visto partire Domenico Pozzovivo non hanno reagito, hanno lasciato fare. È un modo per debitarsi e andare quindi in credito, soprattutto nell'ultima settimana. Hai capito, logicamente, pare il Giro d'Italia, ma pare il Paglio di Siena. Come? No, Giro d'Italia, ma pare il Paglio di Siena. E nello sport tu mi insegni che comunque ci sono, certo, poi c'è l'aspetto sportivo, che non è così tutto a tavolino. Logico che Pozzovivo, il suo sogno è arrivare nei 5 al Giro d'Italia e farà di tutto per rimanere con Ivan. Logicamente stringono un'alleanza, diciamo che hanno degli interessi in comune. L'interesse di Ivan Basso è il bottino pieno, la maglia rosa. L'interesse di Domenico Pozzovivo, che conosce le sue reali forze, è quello di entrare tra i primi 5 e quindi di avere anche a disposizione una grande team come la Liquigas, che potrebbe fare il caso suo. Capito. Per agosto io stavo ridendo perché stanno premiando in questo momento Pozzovivo. Lui, sì, sopra il podio era ancora più basso delle modelle che sono giù dal podio. Grazie Pier Augusto. E altro 165 centimetri, quindi è proprio una pulce. È basso, quindi non è alto, sì, è basso. Sì, sì, basso, sì. Sono due bassi, diciamo due bassi. C'è il basso Ivan che punta al giro e c'è il basso Pozzovivo che cerca di arrivare tra i primi. Grazie Pier Augusto. Ciao Carlo. Grazie per Augusto Stagi dal Giro d'Italia. Tra poco, mentre io invito di nuovo gli ascoltatori 800 24 00 24, ma i temi di quest'ultima domenica sono tanti e molto divertenti, devo dire, almeno dal mio punto di vista, dall'addio in massa, dalla diaspora di tanti giocatori che hanno fatto la storia del nostro calcio alla festa scudetto della Juventus, a Prandelli che chiama suo figlio. Vieni anche tu agli europei. Hai sentita questa, Andrea Zorzi? Ho letto anche se... No, Prandelli ha convocato tra gli altri anche suo figlio, che fa il preparatore atletico nel Parma e farà parte dello staff tecnico della nazionale agli europei di... Non è la mia faccia, è il tuo tono, amico, che sta facendo pensare a qualche accordo. No, stiamo parlando del Giro d'Italia, adesso è un altro, gli accordi ti fa rintrippare. No, non hai accolto con favore quindi questa convocazione? Non lo so, lo chiedo a te, lo chiedo a voi, lo chiedo al pubblico qui presente, lo chiedo agli ascoltatori a casa. 800 24 00 24. No, beh, va bene, magari è bravissimo, magari è bravissimo. Ma non lo so, non lo conosco, non mi tirare in mezzo quando non c'entro nulla. Quindi poi parleremo anche di Prandelli e del suo figliolo che va a far parte dello staff tecnico azzurro per gli europei che si giocheranno tra pochi giorni ormai. Però a Mario Boltroneri, che l'ha visto, mentre io, ripeto, non ho visto neanche un metro, quindi attendo un racconto dettagliato, chiedo ragguagli sul Gran Premio di Spagna, che già ieri dalle prove mi è sembrato molto curioso, no? Con tutti i big in caduta libera, con Hamilton che ha fatto la pole position e poi è stato scaraventato all'ultimo posto, e con la Williams che torna a vincere un millennio dopo, perché nello sport dal 2004 oggi è un millennio, e Maldonado che vince la sua prima corsa ed è il quinto pilota su 5 gare, 5 piloti diversi. Ciao Mario. Ciao, ciao Carlo, buon libro. Senti, effettivamente è stata una giornata un po' particolare, direi complessivamente molto interessante. Tu accennavi al fatto delle squadre, in particolare Milan, che stanno cambiando i giocatori. Ecco, mi è sembrato che anche nella Formula 1 stia cambiando qualche cosa, non solo Maldonado 27enne, ma ritornano insieme alle Zanotte, Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari, anche le Renault e le Williams. Quindi sta diventando un campionato sempre più interessante, tra l'altro con 6 campioni del mondo, e aggiungiamo appunto che è arrivato terzo Raikkonen, ma avrebbe potuto anche vincere, solo che c'è stato un errore di strategia, per cui pur recuperando molto negli ultimi giri non è riuscito a raggiungere né Maldonado né la Ferrari di Alonso. Ecco, a proposito della Ferrari, questa è stata una sconfitta o una vittoria? Io considero che si era sempre detto, quando arriviamo alle gare europee, la quinta in particolare, sapremo realmente quali sono le possibilità della Ferrari. Beh, la Ferrari che si trova con il suo pilota a 61 punti così alla pari con Vettel, non è andata assolutamente male, manca ancora qualcosa, ma io credo che è meglio essere considerare il bicchiere mezzo pieno che non mezzo vuoto. È evidente che la vettura ha bisogno di fare ancora qualche piccolo passo avanti. Il problema diventa se i competitori, diciamo, saltati fuori oggi diventeranno competitori continuativi anche dopo, quindi sarà, ricordavi tu, 5 gare, 5 vincitori diversi, diventerà un campionato ancora più interessante, anche se sempre molto incasinato. Diciamo che la Ferrari fin qui ha giocato in contropiede, adesso deve cominciare a, cioè bisogna capire se può giocare in attacco. Mario, io ti ringrazio per questo. Alla prossima. Ciao, buon libro anche a Mario Poltronieri. Vedo Daniele da Roma e Nunzio da Mestre in linea, 800 24 00 24, numero verde. Andrea Zorzi, c'è aria di così di fascino da altri tempi, le Williams, le Lotus che tornano competitive, c'è Raikkonen che ritorna anche nella Formula 1, un sacco di squadre diverse vintage, sì, un po', sì, ricordo, tu ricordi la Zone Player Special? Come no. C'è un po' più tira la sei ruote, quella lì. L'ho fatta vedere a mio figlio una volta, perché brutta da morire secondo brutta. Me. No. Però andavano moltissimo gli adesivi. Io quando ero un ragazzino che faceva le medie o iniziava il liceo, ricordo collezionavo adesivi, e quello della Zone Player Special andavano moltissimo, ed era una macchina piuttosto brutta. Erano i primi tempi del turbo, quando si iniziava a avere questa differenza tra aspirati e turbo, e poi ovviamente mio padre, che è un grande appassionato di motori, è stato lui, Ferrari non si può toccare in nessun caso, però è vero che sono nomi che ricordano altri momenti. In realtà Red Bull e via dicendo sono un po' più recenti. Sono un nuovo che avanza, che avanza velocemente e che ha già vinto molto. Parliamo degli ascoltatori, che sono, ce ne sono già tre in linea. Daniele da Roma, tanto per cominciare. Sì, pronto, buonasera. Pronto. Buonasera, cosa sta leggendo in questo momento lei? Cos'ha sul comodino, visto che siamo al Salone del Libro qui di Torino? No, io in questo momento leggo L'ultimo di Baricco. Ah, com'è? Molto bello, brevissimo, ma molto bello. Sto vedendo Baricco che spunta dalla dietro, lo vedi anche tu? Sì. Sì. Dica, Daniele. Io volevo intervenire per l'addio di Del Piero. Sì. Da juventino, ma un po' in controcorrente. Mi sento un po' più vecchio con l'addio di un grande campione e ci sono cresciuto insieme. Però ritengo che a 38 Aspetta un attimo, anni... mi faccia fare un sondaggio al volo. Tra i qui presenti, quanti juventini ci sono? Sulla mano. Elena Ligios, che prima mi ha comprato la Gazzetta, che ringrazio. Molto decisa nell'essere molto decisa. Tifosa. 1, 2, 3. Tutti qui i juventini? 4? Con 5 è il papà che tiene in braccio la, come si chiama la bimba? Sara tiene in braccio Sara, che sarà juventina per forza di cose, perché ma giusto così, perché è ovvio che tradizione, sì, per tradizione, ma anche per imposizione, se vogliamo, perché è giusto così, cioè i figli tifano quello che dice papà, è così, no? Per un giusto po' di giusto tempo. Poi quando crescono magari cambia, vabbè. Vediamo se cambiano, vadano a cercare la paghetta da un'altra parte. Daniele, dica. Sì, io dicevo, l'addio di Del Piero, un po' in controcorrente, dico che è ora. Che è stata gestita malissimo dalla società, a livello societario è stata gestita male, ma a 38 anni ritengo che sia il momento giusto. Poi si corona con scudetto e magari speriamo Coppa Italia, e ritengo che insomma a 38 anni sia giusto abbandonare il palcoscenico di primo piano, ecco. Sì, la differenza è che Del Piero non l'ha scelto, cioè gli han detto guarda che questo è il tuo ultimo anno, lui ma come, vorrei giocare, no aspetta, tuo ultimo anno e facciamo così, l'ultimo anno alla Juve. ottimo, no, la Juve, ma anche Seedorf ha detto che vuole andare avanti col calcio, quindi non so, non si sa se nel Milan o da un'altra parte. Ma sono d'accordo sul fatto che era ora per Del Piero, ma era ora anche per tutti i milanisti. Curiosità su Daniele, è tifoso juventino emigrato a Roma o un romano che tifa Juve? Romano che tifa Juve. E come si trova un romano a Roma che tifa Juve? Male, si trova sempre in curva di si trova sempre in? Nelle curve degli ospiti. come vuoi che si trovi un romano? Disastro, disastro assoluto. Grazie Daniele, comunque sono d'accordo con lei, cioè va bene la riconoscenza, vanno bene tutte queste cose, però fisiologicamente arriva il momento e arriva anche il pizzino. Allora, City QPR 1-1, ma ci sarà qualcuno di voi che a casa sta guardando il Manchester City? Perché non mi chiamate? 800 24 00 24, e mi dite come sta andando sta partita. C'è lo United invece in vantaggio sul Sunderland, quindi in questo momento il Manchester United, cioè la metà ricca e titolata di Manchester, sarebbe campione d'Inghilterra. Serve un altro gol dei Light Blue. Ricca è anche l'altra metà adesso di Manchester. Sì, ma storicamente, quella Manchester City è quella, la squadra del proletariato e degli Oasis. Perché lo sceicco a occhio croce, Mansour, se ricordo bene, due lire o due euro. Insomma, qualcosa in tasca ce l'ha. Nunzio, mestre. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Innanzitutto vi saluto tutti e due. Niente, volevo fare una domanda a lei, signor Genta, e una a Giorgi. Quella per lei, signor Genta, sì, era se faceva il tifo come me stasera per l'Olympiacos contro il Sesca, che speriamo che facciano il miracolo, non so se ce la fanno. E l'altra per Giorgi, a me la faccia pure in Veneto, Io no, aspetti, prima le rispondo io. Faccio il tifo per l'Olympiacos, naturalmente gli underdog di questa edizione dell'Eurolega contro il ricchissimo Sesca di Mosca. E poi faccio anche un appunto, ma lo farò più tardi perché verrà a trovarci Dan Peterson, non fisicamente perché è a Istanbul a commentare le finali di Eurolega, però noto che queste squadre molto ricche hanno dei greci come Spanoulis, hanno dei russi come Kirilenko come stelle della squadra. Gli americani fanno tappezzeria in queste squadre in cui il nucleo forte è da una parte greco e dall'altra comunque europeo, greco ed europeo, e dall'altra russo e comunque europeo. E forse vale la pena ricordare anche che non è male il fatto che questa finale arrivi per una squadra greca in un momento drammatico per la Grecia. Grecia, come dicevi te, con una tradizione in cui anche in mezzo alla crisi questa identità della Grecia con il basket rimane fortissima. Sì, poi anche lì qualche soldo ce l'hanno perché ci sono gli armatori sia per il Panathinaikos che per l'Olympiacos, quindi non stanno proprio le pezze al sedere. 50% dei porti cinesi sono gestiti da armatori greci, quindi non è che sono proprio in mezzo a una strada. Nunzio, la domanda in Veneto per Andrea Zorzi invece qual è? Ma no, in Veneto volevo dire se il sistema, che è unico secondo me, della Prolecco di pallanuoto, che ha una squadra per la Champions e una squadra per il campionato, potrebbe essere adottato, ciò che è un po' fantascienza, da qualche altro club, da qualche altro sport, insomma, visto che Giorgi è un uomo squadra, volevo sapere da parte sua se era applicabile questo metodo. La realtà della Prolecco è unica perché è una tradizione infinita, grandissimi dirigenti con grande competenza e, lo metto per ultimo ma anche per primo, anche grande disponibilità economica rispetto alle altre squadre, quindi si può permettere di andare in giro per l'Europa, per il mondo, a prendere i più grandi campioni e poter costruire due squadre, una per il campionato e una per la Coppa Europea. A me non piace moltissimo questo, trovo che l'alternanza di vittorie e di risultati e la diffusione dello sport siano un criterio fondamentale per rendere lo sport la disciplina più evoluta. Quindi io credo che la Prolecco se lo possa permettere perché effettivamente ha delle potenzialità anche economiche che nella pallanuoto sono sufficienti per costruire due grandissime squadre che sono super competitive, ma non mi auguro che questo diventi un modello esportabile in altre discipline. Queen's Park Rangers in vantaggio sul Manchester City 2-1 in casa dei Light Blue, con lo United che sta vincendo, e qui sento puzza di dramma sportivo. Te lo chiedo così, il QPR aveva qualcosa a che fare con Briatore? Aveva. È stata la squadra. Aveva, è stata la squadra. Elton John e Briatore no. No, no, Elton John altra storia. Un'altra storia. QPR piuttosto deve salvarsi, cioè una partita importante per i Queen's Park Rangers. Però, insomma, Mancini e Balotelli dovrebbero festeggiare un titolo. Se va così, mi sa che sarà domenica delle lacrime, non solo per i tifosi del Milan, ma anche per quelli del City, per cui facciamo un grandissimo tifo, non solo perché ci sono Mancini e Balotelli, ma perché davvero l'altra metà di Manchester, quella rossa, negli ultimi anni si è presa tutto. Ettore da Roma, buonasera. Sì, salve. Salve. Allora, io sono tifoso juventino, sono uno, diciamo, che forse in maniera nostalgica e anche un po' romantica sperava che all'avvicinarsi di questa giornata ci fosse una conferenza stampa da parte magari del dottor Agnelli, con la quale, diciamo, dicesse che anche se ci fosse stato l'addio da parte di Del Piero al calcio giocato, magari ci sarebbe stato un futuro come dirigente. Il dottor Agnelli, bravissima persona, me lo vedo molto pragmatico da un punto di vista sportivo, forse diciamo da un punto di vista un po' romantico di cuore, forse un po' in questo senso diciamo si è un po' lasciato andare, perché come ha detto giustamente lei prima, a differenza degli altri giocatori del Milan, a Del Piero è stato imposto di non giocare più. Avrei preferito, sì, ma... anche a nome un po' di tutti i tifosi, beh, che ci fosse dato dire... anche un futuro. Ma aspetti un attimo, magari il futuro ci sarà, però non deve essere obbligatorio, cioè è questo che io intendo. Magari un futuro ci sarà, Del Piero sappiamo cos'è per la Juventus e cosa rappresenta. Possono esserci delle chance di prosecuzione di questo matrimonio nel futuro, però quello che intendo io è che nel professionismo non è obbligatorio. La Juventus ha dato tantissimo a Del Piero, Del Piero ha dato tantissimo alla Juventus, vale anche dirsi addio per sempre. Ettore, c'ho anche una domanda da farti, o meglio, io credo che uno dei valori della Juve di quest'anno, oltre ad aver vinto lo scudetto, che è il massimo risultato che si possa aspettare, è il fatto che la società ha fatto capire molto chiaramente quali sono le loro strategie, in alcuni casi in modo anche molto duro, però non ha dato in mano le chiavi della società a un giocatore, ha puntato su un allenatore, ha creato dei ragazzi giovani che sono cresciuti moltissimo, e questo mi pare essere la base che rende tutti i tifosi juventini molto positivi e ottimisti per il futuro. Ecco perché credo che sia corretto in qualche modo trovare il giusto ruolo. Del Piero è un grande patrimonio, ma l'importante è che adesso c'è una società con un presidente e un direttore sportivo che sembrano e vogliono essere in controllo delle scelte strategiche per i prossimi anni. E mi sembra del tutto corretta come filosofia. 800240024 per chiamarci, noi siamo qui, Salone del Libro di Torino. Chi vuole fermarsi anche a guardare lo spettacolo può farlo tra chi circola qui davanti. A tempo di sport dal Salone del Libro di Torino, qui con me Andrea Zorzi, 800240024 come sempre per intervenire. E diceva giustamente Giorgio Luca, definizione azzeccata, questo, cos'è sto fischio? Questo non è roba nostra. Non è roba nostra. Questa domenica rischia di diventare il 5 maggio per il Manchester City di Roberto Mancini, che sta perdendo 2-1 in casa con il Queen's Park Rangers. Il Manchester United, così ci dicono perché non lo vediamo, se qualcuno è davanti allo schermo che ci fa un commento, siamo contenti. Il Manchester United sta vincendo 1-0 con il Sunderland, e dunque Mancini rischia, dopo questa lunga cavalcata, di perdere il titolo d'Inghilterra. Mancini, Balotelli, gli Oasis e tutti i light blue del caso. Daniele da Bologna, buonasera. Pronto? Pronto? Eccomi. Senta Daniele, ho già visto la corsa per caso? Sì, l'ho vista. Ci domandavamo io, Andrea Zorzi, che fine avesse fatto Massa. Non pervenuto, ah ok, quindi non diverso dal solito, insomma. Sì, anzi quasi peggio, diciamo. Quasi peggio. No, però ci tolga, cosa è partito, si è fermato, è andato piano, cosa ha combinato? Ah, non hanno più inquadrato dopo le prime 5-6 giri, quindi o si è fermato o è arrivato in fondo allo schieramento. Ah, non l'hanno neanche più inquadrato, va bene. No, proprio... Okay. Sperso in mezzo al gruppo. Sperso in mezzo al gruppo. È addirittura doppiato, che tristezza. Dica Daniele. Volevo fare un commento sul campionato di quest'anno, che sì, forse per la paura delle inchieste, finalmente tutte le squadre hanno lottato fino, fino alla fine. Come dovrebbe essere normale. Sì, come dovrebbe essere, come sono tutte le altre campionati, tranne che in Italia. Ah. Poi volevo chiedere una cosa, ma forse, visto la crisi che c'è, in Italia finalmente si punterà sui giovani, piuttosto che su stranieri strapagati da nomi impossibili e che non rendono niente. I giovani, se sono bravi, guardi, io ho una mia idea su questa storia, magari poco condivisibile per il grande pubblico. Nello sport professionistico, questo vale per il calcio, vale per il basket, vale per tutto quanto, nello sport professionistico io non sto tanto a guardare il passaporto, cioè nel senso che mi interessa abbastanza poco, nel rispetto dei regolamenti, se siano italiani, bulgari, rumeni, slavi, americani, eccetera. Giovani sì, perché è bello veder nascere nuovi talenti, ma giocatori che siano bravi, se sono italiani meglio ovviamente, però non giovani italiani a tutti i costi col posto garantito. Posto fisso non ce l'ha nessuno. Guarda, io rubo, lo dice anche il ministro del lavoro. Io rubo un commento che ha fatto Angelo Lorenzetti, allenatore di pallavolo, in questi giorni, commentando la scelta della Federazione Italiana Pallavolo, che negli ultimi anni ha affiancato al Club Italia, che è riservato ai giocatori giovani, ha affiancato anche la sezione maschile. E lui dice: perché non sono d'accordo su questo? Non perché non credo ai giovani, anzi mi piacciono molto, ma 2 anni fa la Federazione doveva dirmi qual era l'obiettivo che si prefiggeva con questa scelta. E questo è fondamentale, non è questione di italiani, giovani o stranieri. Esatto. Cioè, qual è la strada che vorresti percorrere? Allora, una è già segnata: soldi in Italia per comprare i grandi campioni non ci sono, e lì, volente o nolente, non tocca a noi decidere. Esatto. Poi ti rimane la possibilità di cercare giovani più o meno bravi, più bravi possibili. Puoi tentare di fare una ricerca in Europa su giocatori medi che possono assolvere lo scopo, ma l'importante è avere un'idea e comunicarla, da che parte vorremmo andare, cosa vorremmo ottenere, certo, con questa strategia, certo. Se no siamo frutto del caso, prendi un giovane che esplode e diventiamo difensori dei giovani. Ma io sono un sostenitore del modello udinese, che ha una rete di osservatori molto ramificata, che va a pescare in giro per il mondo e a valorizzare giovani di ogni provenienza, offrendo un grande spettacolo, offrendo un grande calcio, offrendo comunque qualcosa di molto moderno. Perché dire devono giocare i giovani italiani? No, devono giocare i giovani italiani se sono bravi. Questo nello sport professionistico, nello sport al massimo livello. Vorrei chiedere un parere anche ad Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, che è collegato con noi. Ciao Andrea. Ciao a tutti, anche a Zorro ovviamente. Noi stavamo chiacchierando in libertà. Sì, no, io sono molto interessato. Io penso che la giornata di oggi, ad esempio, nel nostro campionato sia molto importante, perché questo saluto che hanno rivolto ai propri tifosi i giocatori del Milan, i senatori del Milan, lo stesso Del Piero, segni un po' la fine di un'epoca, ed è giusto omaggiare questi grandi campioni che hanno dato tantissimo al Milan e alla Juventus. Però oggi si chiude un'epoca e, per fortuna, dico io, se ne apre una nuova, perché io credo che in Italia nello sport sia ancora troppo difficile il ricambio, è troppo complicato il ricambio generazionale, in Italia lo si ritarda troppo. Io penso che, con tutto l'affetto, la stima, il ricordo bellissimo che abbiamo dei vari Inzaghi, Del Piero, Gattuso, Nesta, Seedorf, secondo me questi addii di oggi arrivano, secondo me, per come vedo io la vita e lo sport, con un paio d'anni di ritardo. Oggi li salutiamo e da domani si apre un'epoca nuova, per la quale probabilmente né il Milan né la Juventus sono pronti, perché nessuno dei due club ha granché investito sui propri giovani o su giovani di alta provenienza. Però comunque è positivo che da domani si debba per forza guardare al futuro, che è l'unica salvezza per tutti. Sì, se poi riesci, hai la forza e il coraggio di fare, di operare questo ricambio generazionale dopo aver vinto, probabilmente è meglio ancora, no? Piuttosto che arrivarci dopo una grande sconfitta. Però è chiaro che, insomma, questo sventolare di fazzoletti era inevitabile ormai da tante stagioni. Ma io credo anche che i tifosi del Milan, qui lo chiedo anche agli ascoltatori, 800 24 0024, siano per la stragrande maggioranza grati a tutti questi grandi campioni, ma insomma alla fine felici di vedere qualcosa di nuovo e di diverso. Infatti il concetto, e poi vorrei davvero sentire anche cosa ne pensa Andrea, io credo che ci possa essere come dirigenti rispettosi, totalmente rispettosi del ruolo che ha avuto un grande campione, senza che questo significhi necessariamente coinvolgerlo. Esatto. Con quale ruolo non si sa, no, nel ma essere di anche squadra. Ostaggio Andrea di un grande campione anche nello spogliatoio, perché dicono vanno via perché non andavano d'accordo con Allegri. Allegri fa l'allenatore, deve essere libero di fare l'allenatore, i giocatori devono fare i giocatori, no? Io ho un pensiero ancora più estremo, forse paradossale, ma non credo che lo sia. Secondo me uno dei segreti principali della Juve vincente di quest'anno è stato proprio l'essere riuscita fin dall'inizio della stagione a far capire che l'epoca del Piero si stava chiudendo. In questo modo sì. Del Piero non ha più avuto quella funzione che aveva avuto magari negli anni scorsi, diciamo, che aveva di pungolo, ma spesso anche di un po' peggio nei confronti dei propri compagni di squadra, soprattutto quelli del settore d'attacco. Cioè la presenza incombente di Del Piero, secondo me, negli ultimi anni... Sono d'accordo. Non so se il bestemmio, magari per molti juventini, no, sì, però... Secondo me era stata addirittura così non positivissima per certi equilibri interni. Quest'anno la Juve, dall'inizio ha detto che Del Piero chiudeva, e infatti Del Piero poi non ha avuto neanche impatto sulla squadra, ha risolto una partita con la Lazio e quella è stata molto importante, però per il resto Del Piero di fatto non è comparso nella Juve campione d'Italia, e secondo me anche questo ha aiutato molto il gruppo e l'ambiente. Ecco che torniamo sempre in diretta dal Salone del Libro di Torino, abbiamo scandalizzato un po' di ascoltatori, cioè di spettatori qui che se ne sono andati dopo aver fatto questi discorsi su Del Piero, evidentemente. Magari giravano semplicemente alla ricerca del prossimo libro. Li ho visti, hanno scosso la testa. A proposito, sia per Carlo che per Andrea collegato, attenzione anche però a non leggere tutto con la prospettiva positiva della Juve che vince lo scudetto, e che significa che bravi. Allora, hanno fatto benissimo perché hanno chiarito fin dall'inizio qual è il progetto. Il fatto che abbiano anche vinto subito rende la loro strategia una strategia meravigliosa, però se per caso non vincono, l'idea che Del Piero l'ha scaricato metà stagione potrebbe diventare, guarda caso, la stessa scelta. Però guarda caso Andrea hanno vinto. Dicevamo prima che ciò che conta non è fare solo il giornalista e leggere col senno di poi ciò che è accaduto per ridare significato alle scelte. La progettualità qual è? La Juve vuole ripartire, lo ha fatto investendo molto sui giovani, lo ha fatto anche dicendo a Del Piero grazie mille, però questa è la nostra scelta. Hanno anche vinto, funziona tutto. Sì. Sai che se per caso non vincono, la ragione per cui non hanno vinto è perché... Lo so, è stata una scelta anche in parte coraggiosa, se vogliamo anche impopolare o per alcuni aspetti inelegante, no Andrea Sorrentino, però una mossa vincente per la ragione che tu dicevi prima, non è blasfemia. Del Piero comunque aveva e ha un peso fortissimo sull'opinione pubblica juventina, e il fatto di aver in parte disinnescato questo grande appeal è stato disinnescato perché alla fine si è detto questa comunque è l'ultima stagione. Conte ha fatto le sue scelte, l'ha messo spesso in panchina. Non ho condiviso in alcuni momenti la gestione di Del Piero da parte di Conte, perché farlo entrare negli ultimi due minuti secondo me è stato un trattamento non necessario, e Del Piero come figura meritava maggiore rispetto, però così è andata Andrea Sorrentino. Esatto, e poi purtroppo magari capiterà anche a me fra qualche anno nella mia avventura professionale, o anche a voi, non ve lo auguro, però purtroppo, secondo me, per preparare il futuro e per avvicinarlo è necessario anche compiere qualche forzatura o qualche gesto così, magari inelegante, che possa essere recepito come irrispettoso da chi poi lo subisce. Però, ragazzi, non c'è verso. Se vuoi guardare al futuro devi in qualche modo rimuovere il passato, a volte anche con la forza. Ed è, credo, un fatto inevitabile nella vita, professionale e non. Quindi Del Piero quest'anno ha rappresentato, diciamo, il vecchio che passava e faceva spazio al nuovo, ma prima o poi doveva accadere. Secondo me il fatto che Del Piero negli ultimi 6, 7, 8 campionati avesse ricevuto più o meno lo stesso trattamento da tutti gli allenatori che si erano avvicendati sulla panchina della Juve, cioè tutti avevano tentato di metterlo in panchina per motivi che tutti condividevano, ci può far capire come Del Piero magari ultimamente avesse rappresentato più che altro un problema per la Juve, pur con tutto il rispetto, mi dispiace che stiamo parlando dal Salone di Torino e quindi incorreremo nelle ire del pubblico, però io ma tu sei lì al telefono, noi rischiamo le botte qui infatti che abbiamo discorso che è meglio per voi. Potremmo ribaltare la frittata e dire che è stata una scelta strategicamente geniale, sì, motivare Del Piero facendolo giocare al massimo proprio perché gli hanno detto guarda che tu non fai più parte dei nostri piani e quindi lui non c'ha più nulla da perdere. Sentirà anche Andrea Sorrentino il rumore degli artigli sugli specchi a questo punto di Andrea Zorzi. Andrea, ti ringrazio. Sì, grazie a voi. Grazie Andrea. Vedo che il Mancio abbia perso il campionato nel frattempo. Comunque Mancio ha perso il campionato. L'ha perso, psicodramma, 5 maggio del Manchester City oggi. Io l'ultima notizia che ho avuto attraverso i pizzini di Giorgio De Luca era di un Balotelli entrato in campo a 10 minuti dalla fine, ma manco un minuto. E due gol da fare, tanta roba. Sono tristissimo, sono veramente molto triste, ma sul serio, mi spiace un sacco. Grazie Andrea. Sì, abbraccio. La vendetta di Mark Hughes, tutto qua, ciao a tutti. La vendetta di Mark Hughes, che era stato scaricato con due R a favore di Mancini e contro il volere dello spogliatoio del Manchester City. Nereo, nome importante nello sport, da Riccione. Ciao, salve a tutti. Ciao. Ciao, allora vi voglio dare un'informazione sulla Formula 1, l'hanno visto Massa. L'hanno visto? Sì, l'hanno visto a 4-5 giri dalla fine quando si è fatto sverniciare dai primi due, da Maldonado e da Alonso che l'hanno doppiato. Che l'hanno doppiato, la buona notizia è che non ha neanche preso l'autovelox. Però volevo dire un'altra cosa, due cose velocissime. Uno... Sì. Che se la Juve ha vinto lo scudetto lo deve dire grazie solamente al Milan che gli ha fatto il regalo di Pirlo. Mai sì. Fare un errore così a dare a una diretta rivale un giocatore così importante. Voi cosa ne pensate? Due, la seconda è che l'Inter già sarebbe già da un paio d'anni che doveva cominciare a rottamare i suoi giocatori, che ce ne ha che non sono più in grado di essere da Inter, e su questo vi saluto e ciao a tutti. Grazie Nereo che ci ha dato giù leggero, però sverniciare è un termine romagnolo, proprio è un termine Valentin Rossesco, sai, il dottor Costa, sì, clinica mobile, sì, una frase bellissima che mi ha detto quando l'ho intervistato è stata l'Emilia 2-2, sì, ti ha segnato Balotelli? No. Chi? Dzeko, 2-2, però non basta, Non basta ancora. Non basta perché l'United sta vincendo. Riguardo quindi Emilia e Romagna. In Emilia costruiscono i motori. Sì. In Romagna gli danno un'anima. Perché lì ci sono quelli che li usano, quelli che corrono, che siano due o quattro ruote, sono quelli che poi alla fine fanno ruggire questi motori costruiti in Emilia. E sverniciare è un termine che è diventato abbastanza comune negli ultimi anni, da quando anche il MotoGP si commenta in modo abbastanza informale. Esatto, termine molto caro a Valentino Rossi. No, poi sul resto sono abbastanza d'accordo, sia su Del Piero, Milan ha fatto un errore nel cederlo alla Juventus, che ne ha fatto il perno del suo scudetto, e anche se non rientrava più nei piani del Milan, comunque Pirlo, che ha un'età avanzata, chiedeva un contratto molto lungo, quindi il Milan ha cominciato la rottamazione nel modo sbagliato, diciamo, con Pirlo. Quanto invece alla rottamazione dei giocatori dell'Inter, d'accordo con lui, perché l'Inter, Milano si ritrova in mano due squadre da rifondare totalmente. A questo punto il domandone è: quanti quattrini Berlusconi e Moratti, che sono esempi unici nel mondo dello sport, del calcio in particolare, non sono sceicchi, almeno non mi risulta siano, abbiano ancora questo titolo, non sono così come La Porta o come Florentino Perez a capo di un impero con molti soci, sono semplicemente due mecenati, figura in disuso nello sport. 3-2 di chi? Chi ha segnato? Dimmi chi ha segnato, Giorgio De Luca. All'ultimo Agüero potrebbe dare, mamma mia, potrebbe dare lo scudetto al questa storia è bellissima, cioè sotto a un minuto dalla fine erano sotto 2-1, è già la seconda in giornata, i gol di Inzaghi che chiude gol la sua carriera. Del Piero, gol di Inzaghi, e adesso il City che stava perdendo lo scudetto a un minuto dal novantesimo e che ribalta il risultato con Dzeko e Agüero. È finita? 3-2. Non è finita, allora vi tengo tutti in sospeso, sentiamo il giornale radio e poi torniamo per darvi la notizia se Mancini e Balotelli sono o non sono campioni d'Inghilterra. A dopo. Eccoci tornati sempre in diretta dal Salone del Libro di Torino, sempre qui in compagnia del mio amico Andrea Zorzi, di tanti ascoltatori, 800240024, del pubblico e di una domenica, caro Andrea, da libro. Adesso parliamo con Marco e Alessandro che sono lì da prima del GR, anzi li ringrazio subito per l'attesa. Dobbiamo dire anche che ci è scappato un tweet troppo veloce. Porca miseria, ci è scappato sul tweet di A Tempo di Sport, e vi ricordo anche la pagina Facebook, così ci teniamo agganciati. C'era scappato un tweet: mannaggia Mancini, ha perso il titolo, invece l'ha vinto. Dimmi tu se non è una domenica da libro questa, con Inzaghi che dà l'addio al Milan segnando il gol di questa vittoria che è solo simbolica sul Novara, con Del Piero a segno nella festa scudetto della Juventus, e con Roberto Mancini e Mario Balotelli che entra in campo a 10 minuti dalla fine col City sotto 2-1 in pieno psicodramma azzurro. Ultimo minuto, City ancora sotto, Manchester United campione d'Inghilterra, invece gli ultimi tre minuti di recupero segnano Dzeko e Agüero, e a voler essere maliziosi ti viene in mente lo Sheikh Mansour che va a bordo campo. Quanto viene il QPR? Infatti il libro, quanto costa? Il libro dell'odierna giornata fai fatica a metterlo nello scaffale. Cos'è? Sì. Sport, noir, fantascienza, fantasy. Perché sai, ci sono un po' di cose che non è mica facile capire. Marco da Milano, cos'è il libro di oggi? Marco? Sì, pronto. Cos'è il libro di oggi? Che cos'è? Fantasy, il libro di oggi, tutti questi addi che ci sono stati, economia, a Milan, insomma, molto emozionanti. Mi racconti cosa è successo a San Siro? Allora, San Siro, insomma, è stata una bella atmosfera, poi tutto coronato dal gol di Inzaghi. Insomma, è stato un bel pomeriggio di sport. Sì. E insomma, c'era un bel clima, anche se comunque qualche striscione. Io ero in curva, quindi la maggior parte degli striscioni comunque sia erano lì in curva, quindi non li vedevo direttamente, però sì, lo stadio anche in generale era pieno di striscioni di ringraziamento. Ma i tifosi del Milan cosa si aspettano per il prossimo anno? Poi anche per gli altri, però. No, ma Andrea Zorzi ti domandava cosa si aspettano i tifosi del Milan per il prossimo anno, e io aggiungo, i tifosi del Milan come vivono al di là del tributo questi, e del fatto che comunque, insomma, è un pezzo della loro storia che viene archiviato, quindi capisco questi sentimenti di dolce malinconia, però sull'addio di questi veterani o di questi vecchioni, il sentimento del tifoso del Milan qual è? Ma io sono un po' d'accordo con quello che ha detto lei prima, nel senso che comunque grazie di tutto, anche se sono arrivati spompatissimi proprio all'addio, perché effettivamente due anni prima si poteva smettere, sì. Però c'è anche voglia comunque sia di creare un nuovo ciclo da zero, ho capito, perché comunque questi personaggi qua, per quanto abbiano fatto, sono arrivati proprio stanchissimi. Inzaghi prima di tutti ha lasciato il Milan proprio quasi riconoscibile, a parte il gol di oggi, insomma, le partite che aveva fatto prima o era infortunato oppure comunque sia non era più lui. Certo. Volevo aggiungere un'ultima cosa, poi chiudo. Prego. Tra tutti questi addii comunque che ci sono stati, una piccola mancanza secondo me è stata quella appunto di non aver dato l'addio tempo fa ai capelli di Conte. Grazie, arrivederci. Gliela concediamo? Sai che non l'ho sentito io. No, meglio così. Alessandro Massa. Buonasera. Niente, io volevo dire, in questa giornata fantastica, che purtroppo non potendo essere andato allo stadio, avendo l'abbonamento, festeggio stasera e faccio un tributo al capitano, perché il capitano sarà indimenticabile. L'unica postilla, avendo vissuto tutta la stagione andando allo stadio, avendo la fortuna di essere stato allo stadio, alla Juve Stadium, avendo avuto l'abbonamento, l'unica possibile che dico poteva comportarsi in maniera diversa, e magari si sarebbe riguadagnato la conferma quest'anno se non avesse con Agnelli, e quindi dicendo Agnelli si dice la storia della Juve, ha avuto la possibilità di firmare il contratto invece che in bianco su Facebook, avrebbe potuto avere la riconferma del contratto anche quest'anno, secondo sì, me. Però, ma no, non lo so quanto poi sarebbe stata funzionale questa riconferma, è un altro discorso che in parte quello che abbiamo fatto prima, insomma, anche lì serviva cambiare, è stato un segnale, insomma, ne abbiamo parlato a lungo prima. Alessandro, tu che sei un tifoso e che segui dallo stadio olimpico della Juve, quanto conta questo stadio nuovo nella vittoria dello scudetto? 300? Sì, perché io ho vissuto il Delle Alpi e tutte le volte che venivo via dal Delle Alpi, sì, bello, stupendo, però partita non esisteva. Io, scherzando con mio vicino di seggiolino, quest'anno gli dicevo sempre prima di iniziare la partita, me lo passi il telecomando? Perché cioè, io ero dietro, ero a 6 metri dalla porta, cioè, lo dico e mi viene la pelle d'oca. Purtroppo oggi poi non ci sono potuto andare per questioni lavorative e me ne è dispiaciuto tantissimo. Infatti stasera sto facendo una festa e faccio una torta a tributo a Del Piero, cioè, però è stupendo, uno stadio così ti dà veramente, credo, veramente tanto. No, ma son d'accordo, ma io credo non solo per il tifo, per l'ambiente, ma credo anche dal punto di vista emotivo per i giocatori della Juventus, comunque inaugurare è sembrata davvero una storia nuova. È un segno tangibile, poi qualcosa che rimane, che rimarrà, che è sintomatico, che evidenzia un passaggio, un cambio. Quindi bravo, insomma, esatto, sono coincise moltissime cose quest'anno. Complimenti, perché a me, pur capendo pochissimo di calcio, non sembrava che partisse favorita la Juve quest'anno. Tanti giocatori sono cresciuti nel corso dell'anno, poi alla fine hanno dominato e mi pare che sia una delle poche squadre che ha finito il campionato imbattuta. Sembrava si parlasse del Milan nel 92, sì, e forse di altri 6 squadre, sì, a livello, sì, europeo, quindi questo è un risultato. Risultato straordinario questo, certamente c'entra lo stadio nuovo, certamente c'entra il lavoro che ha fatto a Conte e certamente c'entra anche il modo in cui è stata gestita la vicenda del Piero, come dicevamo prima, che io capisco è stato per il tifoso della Juventus un pezzo della sua vita e della sua storia, perché come ti dicevo prima, questi giocatori sono qualcosa che un tifoso lega a vari momenti della sua vita, però è giusto così, bisogna avere anche la voglia e il coraggio di staccarsi. Dal Salone del Libro di Torino a Tempo di Sport di oggi, vedo che è in linea un ospite che stavamo aspettando, ma prima Franco da Mantova. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, niente, volevo così intervenire su quanto aveva detto, mi sembra, il signor Sorrentino prima, sì, perché aveva menzionato la Juventus come, assieme al Milan, una società incapace di o che si diciamo rinnova scarsamente con i giovani. A me non sembra affatto, io seguo i campionati giovanili, la primavera in primis, e se c'è una squadra in Italia, ma forse anche in Europa, che sta investendo tantissimo e investirà ancora di più, è proprio la Juventus. Mi sembra che sì, gli ultimi... Anche se, Franco, a me pare di aver capito un'altra cosa. Mi sembra che Sorrentino parlasse dell'Inter e in particolare del Milan. Milan che si trova alle prese con un ricambio generazionale a questo punto necessario e che ha ricominciato da poco a seminare sul settore giovanile, dunque i frutti verranno tra un po'. Non mi pare parlasse della Juventus, Potrei aver capito male io, ma non mi pare parlasse da Juventus, anche perché Andrea Sorrentino, profondo conoscitore di calcio, sa perfettamente quanto ha prodotto, anche in quanto c'è anche nella squadra che ora sta festeggiando lo scudetto del settore giovanile. Mi viene in mente il primo è Marchisio, Marrone che ha segnato oggi, quelli che ci sono in giro per l'Italia e che verranno richiamati alla base, dunque. Ma potrei dire lo stesso Giovinco, Immobile. Ma sì, esatto, e tanti esatto, altri. Esatto. Se c'è una società che investe nel settore giovanile, prima ancora che su celebrati campioni 33 anni. Sì. Poi servono anche celebrati campioni 33 anni, perché senza Pirlo questo scudetto probabilmente la Juventus non avrebbe vinto. Quindi l'idea giusta è quella di mettere un pilota esperto e poi valgono i giovani che, ripeto, non sono così legato al passaporto che questi giovani tengono in tasca quanto al, agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Possiamo ripeterlo fino alla noia per l'ennesima volta: non è che c'è un profilo, un modello che è adatto per vincere e altri non funzionano. Si può vincere in mille modi diversi, si può perdere in 100.000 modi diversi, anzi sì, ci sono più modi per perdere che per vincere. E poi la grande bravura di alcune società sono quelle di riuscire a fare sì che la condizione nella quale si trovano venga organizzata per rendere al massimo. Qualche volta questo coincide, come con la Juventus, con una vittoria straordinaria, qualche volta basta un po' di meno. Mi riferisco per esempio alla telefonata di un tifoso milanista di qualche minuto fa: avrebbe voluto vedere il ricambio generazionale due anni fa. Certo. Il Milan rinuncia per caso a uno scudetto dell'anno scorso? Non avete vinto quei giovani l'anno scorso lo scudetto? No. E quindi probabilmente c'è da dire, insomma, alla fine l'idea è molto bello vedere un progetto e poi sapere però che tutti i vari aspetti vanno messi, vanno rimessi un po'. È chiaro. Grazie Franco. Io saluto e ringrazio invece Marisa Poli, inviata del Corriere della Sera, laddove della Gazzetta, mi corregge, mi bacchetta subito Andrea Zorzi, naturalmente della Gazzetta dello Sport, laddove l'Italia della pallavolo stasera gioca una partita importantissima. Ciao Marisa. Ciao a tutti. Allora spieghiamo, è a Sofia per il torneo di qualificazione olimpica a livello continentale, si qualifica una sola squadra. Adesso chiediamo a Marisa Poli. Ieri sera il dramma è accaduto ai bulgari, che erano i favoritissimi di questa qualificazione, hanno giocato in un palazzetto pienissimo, 13.000 persone, contro i tedeschi, teoricamente una squadra facilmente superabile, e non è finita così, perché oggi, tra qualche ora, invece la finale per l'unico posto a disposizione è tra Italia e Germania. Quindi Marisa, raccontaci un po', partendo da ieri, cosa è accaduto e cosa dobbiamo aspettarci. Io che sono crudele e malvagio da morire, adoro questi drammi sportivi. Marisa. Beh, i bulgari sono veramente usciti delusi dall'Armez Arena ieri sera, con qualche scintilla anche sulla panchina bulgara, perché quando Stoic aveva tolto il suo giocatore di Trento, Kaczynski, ha gettato per terra la paletta con la stessa violenza con cui scaglia le sue battute. È stato veramente un colpo per questa squadra, però l'unico, so che non si può parlare di alibi, però l'infortunio del palleggiatore titolare proprio la mattina della prima giornata li ha certamente limitati. Inquadriamo velocemente. Allora, Stoicev, allenatore sia di Trento che della nazionale bulgara, da anni in coppia con Kaczynski, che è il giocatore capitano della Bulgaria, quindi sembravano un asse assolutamente perfetto. Invece, a quanto pare, ieri è accaduto qualcosa che li fa vedere sotto una luce un po' diversa. Il palleggiatore Zekov, invece, prima della prima partita, risentimento muscolare, non può giocare. Immaginate bene cosa significa per una squadra dover rinunciare al palleggiatore titolare. Di per sé già la Bulgaria pagava, perché non è questo il ruolo nel quale se la cavano meglio. Giocare col secondo palleggiatore per i bulgari in casa è stato veramente un problema che hanno pagato carissimo, anche perché loro non hanno più alcuna possibilità di andare alle Olimpiadi. Sì, ragazzi, se mi permetti, questi sono fatti loro. Adesso parlatemi un po' dell'Italia. Bravo. Perché insomma, bulgari hanno perso e io sono contento, perché tifo Italia e quindi voglio che l'Italia stasera vinca sta benedetta partita e vada e torni a casa con il biglietto per Londra in tasca. Marisa. L'Italia sta arrivando adesso al palazzetto con 11 giocatori sani e uno con le stampelle, perché purtroppo Simone Parodi si è fatto male ieri, proprio durante il secondo set della partita vinta contro la Serbia. Per lui probabilmente uno stiramento, non è niente di gravissimo, dovrà stare fermo credo una decina di giorni, però oggi non ci sarà. E chi pensi che giocherà al posto di Parodi? Credo Papi. Samuele Papi, quindi vecchio Samu, sì. Anni 39. Sì, esatto. Richiamato, sì, domenica prossima. Richiamato da Berruto, convinto che la sua precisione in ricezione e abilità in difesa poteva anche renderlo il secondo libero in caso di necessità. In realtà adesso credo voglia sistemare principalmente la ricezione, quindi invece di puntare su un atleta fisicamente più forte preferisce avere la sicurezza di una buona ricezione. Quindi Marisa, tra un po' tu come la vedi con la Germania? Ma dipenderà molto da Grozer, figlio di un campione che tu conosci bene, credo. Sì, perfettamente. Ieri ha fatto 30 punti nella partita contro l'Italia, ha battuto il povero libero Bari, l'ha preso in faccia senza che questo abbia avuto il tempo di reagire. Quindi dipenderà molto da lui. Se l'Italia riuscirà a fermarlo e a limitare la sua potenza in battuta, non sarà difficile, credo. Speriamo, speriamo. Grazie Marisa. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, ciao, Marisa. Ciao, Marisa. Buon divertimento su Grozer, velocemente. Sì. Il papà di Grozer, quello che schiaccia adesso, è stato lo schiacciatore che nella mia lunga carriera ho visto schiacciare più forte. Sì. Ma più forte vuol dire che in pratica il riscaldamento si faceva dal palleggiatore la palla vicinissima a rete. E la tirava nei 50 centimetri con un rimbalzo che andava in alto da morire. C'è una scena che ricordo ancora un po' sorridendo. In pratica, fra Fede e Giorgi, dalla nostra parte della rete, ogni volta che Grozer schiacciava faceva un rimbalzo, perché talmente forte era il colpo in attacco che il piccolo Fefe rimbalzava per la forza dell'attacco dell'avversario. Si spaventava, sì, anche ovviamente. Sì, sì. Occhio che schiaccia, via, via, via tutti. Francesco da Milano, poi Romano sempre da Milano, sempre ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. Francesco, buonasera. Sì, buonasera. Cosa sta leggendo? Volevo fare un paio di considerazioni. No, aspetti, ti ho chiesto, sono al Salone del Libro di Torino, voglio sapere che cosa sta leggendo, che cos'ha sul comodino. Il libro di Ibrahimovic? Sì, devo dare gli esami dell'università, mica posso stare lì a leggere i libri per narrativa. Ah, vabbè, ok, libri per narrativa, c'è tempo. Sì, volevo dire due cose, che sono uscito da San Siro, no? Sì. Niente, prima volevo fare un piccolo ringraziamento, insomma, ai vigili che ci hanno fatto 80 euro di multa, ma sono stati molto carini, cioè sono stati veramente simpatici. Sì. E poi vabbè, passando invece al discorso tecnico, io sono milanista, però volevo andare un pochino controcorrente, perché direi che Antonio Conte quest'anno, certo, ha fatto di tutto per farsi volere poco bene dal popolo milanista. Però comunque, sì, devo dire che non aveva una squadra eccelsa, ma è riuscita comunque a vincere un campionato rimanendo imbattuta. Secondo me, se mi è concesso, sempre se me lo passate, volevo fare un paragone con Arrigo Sacchi. So che potrebbe essere un po' blasfemo. Alla fine Sacchi è stato un gran motivatore, certo aveva un'altra squadra, è riuscito a vincere tutto. La differenza, secondo me, è una cosa che Conte ha un po' sottovalutato, e su questo secondo me pecca, è che comunque Arrigo Sacchi è riuscito a vincere tutto senza comprarsi un kit di capelli nuovi, mentre Conte si è comprato questi capelli nuovi, quindi secondo me ha peccato un po' di vanità. La saluto, sì, grazie. Francesco, no, aspetta un attimo, no. Francesco, no, ci sei ancora? Ma meglio così. Volevo sapere che infrazione gli hanno contestato i vigili per 80 euro, perché è una tariffa che non conosco. Conosco i 39 del divieto di parcheggio. Sì. Ma 80. Sì, però ragazzi, sta storia dei capelli di Conte, ma trovatene una nuova, eh? Trovatene una diversa, perché, perché sinceramente è così. È un po' pelosa. Dai. No, basta i capelli di Conte per... No, ma sul serio, perché? Perché diventa una battuta scontata e noiosa. Paragone con il Milan di Arrigo Sacchi non saprei, mi sembrano storie molto diverse. Conte ha fatto un lavoro straordinario con una squadra che non era favorita. Perché lo pensava davvero, era tutto per legarsi la battuta sul Parrocchino. Ah, era tutto un giro di parole. Ah, sì, sono stravincono, non ci arriverò mai a ste robe qua. Romano. Pronto? Pronto, mi sentite? Sì. Sì. Allora, volevo anch'io andare contro la mia corrente. Io sono milanista. Sì. Però devo dire che un ascoltatore tempo fa disse che la Juve e il Milan era ora che si liberassero dei vari senatori ultra trentenni. Sì. Però secondo me la Juve, se quest'anno non avesse avuto Del Piero, non avrebbe vinto lo scudetto. Perché? Perché Del Piero ha fatto dei gol fondamentali, dei gol decisivi. E glielo dico io che anni fa in curva gridavo, sbagliandomi, smetti col calcio, Del Piero, smetti col calcio. Mi sbagliavo. Adesso è facile fare retromarcia sui cori da curva, sappiamo bene il peso che possono avere. Vabbè, Del Piero ha fatto quel gol fondamentale contro la Lazio, credo che sia stato un aiuto agli spogliatori. Certamente ha avuto un comportamento impeccabile, Andrea? Su questo non c'è dubbio. Poi forse vale la pena, come sempre, anche nelle analisi finali, usare il condizionale. Penso che è vero che abbiamo visto i gol di Del Piero, ma non sappiamo come sarebbe andata, chiaro, se Del Piero non giocava. Pirlo è fondamentale, certo che lo è stato in base a ciò che è accaduto, e quindi insomma è difficile suddividere in percentuali precise i meriti per ogni singolo giocatore, perché parliamo, guarda caso, di sport di squadra. Senti, prima della pausa, prima di fermarci un attimo, farei Andrea da Trento. Sì. Andrea. Pronto? Eccomi. ciao. Dica. Io sono, devo parlare prima, parlavate di pallavolo e sono da Spezia di Trento, di Trento e un appassionato di pallavolo. Sì. Intanto saluto Andrea Zorzi che è un mito. Ciao, ben ritrovato. E volevo chiederti questo, in base a quello che hai detto prima del problema ieri tra Stoichkov e Kaczynski, secondo me ieri non so se è stato un momento di nervoso di Kaczynski, perché in realtà ha fatto il cambio che lui fa sempre in seconda linea, toglie Matei e mette un ricettore puro, poi purtroppo per loro, per la Bulgaria, Grozner ha trovato una serie a servizio che praticamente gli ha fatto vincere il set, ma non la vedo così no, dire, diciamo, è corretto, però considera questo, che la sconfitta nella finalissima nel V-Day, scudetto 22-20 con Macerata, in qualche modo rende un po' più complicata ripartire con motivazioni. Sono tanti anni che Stoichkov e Kaczynski stanno insieme e hanno vinto moltissimo, e quando perdi inizi anche ad avere un po' meno di pazienza. Ho comunque l'impressione che quello sia un rapporto che ha bisogno di essere un po' ricreato, e non è trascurabile perché sia a Trento, ma soprattutto nella nazionale bulgara, questo significa molto. Ricordiamoci, per loro è svanito il sogno olimpico, e tanto per ricordarlo per l'ennesima volta, la Bulgaria a livello mondiale nella pallavolo è conosciuta come una squadra che ha delle potenzialità quasi incredibili, ma guarda caso non ha mai vinto nulla, e quindi dire a uno sei un bulgaro non significa fargli esattamente un complimento. Sembrava che la generazione di Kaczynski, sì, di Nikolov, di Zekov stesse cambiando questa opinione generale, e invece non sta accadendo, perché nei momenti decisivi, guarda caso, falliscono sempre l'obiettivo resta principale. Resta la mentalità bulgara che li porta probabilmente a piantare casino all'interno del gruppo. In realtà questo l'unico sia fondamentale. Campione che ha la Bulgaria è Kaczynski e parte Nikolov. Il resto del setto è un setto di medio-basso livello, soprattutto secondo spettatore, secondo me. Voci dal giro. Sì, amici miei, siamo al momento del riepilogo con quanto è successo oggi al Giro d'Italia. Siamo al momento dell'assegnazione del premio di giornata, cioè il polsino di Radio 24 firmato da Ivan Basso. A chi risponderà via SMS a questa domanda? 349-238-6666. Allora, oggi è facile, siamo stati bravi. Di che colore è la nuova maglia per il leader degli scalatori? Non più verde, ma 349-238-6666. Oggi ha vinto Pozzovivo a Lago Laceno, non è cambiato molto in classifica generale. È chiaro che il Giro d'Italia si farà strada facendo. Adesso è il momento degli eroi di giornata. A proposito di eroi, Andrea, sai che abbiamo questo concorso per cui regaliamo un viaggio sulla ammiraglia della Liquigas di Basso il 20 maggio a chi ci manda racconti? È un regalo bellissimo, ma attenzione, non è una passeggiata. Spiegaglielo. Sei preoccupato, Sei preoccupato per la loro incolumità. Se poi soffrono il mal di macchina, quello è un test. Sì, non è una cosa che uno va, faccio una bella gita in macchina, bravo, e sento. No, è qualcosa dedicato a chi appunto quantomeno non soffre. Siate pronti a qualche scatto e svirgolato dell'auto. Ci inviano comunque racconti a quei quali molto, molto belli. Proviamo a leggerli quando capita. Senti questo, Roberto Fenzi, 28 maggio 98, mia moglie Angelica e i suoi genitori olandesi, amanti del ciclismo, come secondo buone tradizioni, andarono nelle vicinanze di Budrio, in provincia di Bologna, per vedere passare i corridori del Giro d'Italia. Giornata soleggiata, gente in strada da applaudire, curiosi, tifosi. Verso le 4 del pomeriggio, mentre passava il gruppo, iniziarono le prime doglie e da allora cominciò un'altra corsa, quella verso l'ospedale, dove nel frattempo la raggiunsi. Poi c'è quest'altro di Luisa Selva, senti, era il 54 e avevo 6 anni, mio padre gestiva un negozio di articoli fotografici, dischi, elettrodomestici, l'avvento della televisione rivoluzionò la vita nostra e della cittadina dove vivevo. Mio padre fu il primo a possederla, la televisione, la posizionò in vetrina così che tutti la potessero vedere. Fu così che mi innamorai del giro, poi del ciclismo, che per me sa ancora di papà, di mamma, della loro passione ante litteram per le nuove tecnologie. Il giro fu l'ultima trasmissione televisiva che riuscì a far vedere a mia madre prima che ci lasciasse a 95 anni. Come dicevi te, spesso e volentieri i ricordi personali sono collegati a dei ricordi sportivi. Sì. E quindi in questo caso è strettissimo il fatto che poi il ciclismo rappresenta per noi italiani un percorso storico privilegiato. Non te l'ho mai chiesto, giuro che non ti mando sull'ammiraglia, ma hai un ricordo di giro? Dunque, sono veneto e quindi in quanto tale l'ho seguito molto. Io sono legato alla generazione dei Bitossi. Sì, eh? Sì, ricordo fortissimamente la rivalità tra Moser e Saronni, ero un moseriano. Ma sei mai andato a vederlo passare? No. No, ti manca? Questo mi manca. Tutti me l'hanno parlato come di un'esperienza sportiva, se possibile, da fare. Sì. Tu hai detto più volte, fatto quello... Come giornalista sportivo hai un passo, hai sì. No, se segui il Giro d'Italia credo sia la cosa più, e comunque il Giro d'Italia Tour de France sia la cosa più difficile e faticosa in assoluto, perché fai 3 settimane da zingaro, perché la sala stampa nella scuola e poi cerchi l'albergo, è una vita molto avventurosa, direi che è l'ultima frontiera che ci è rimasta dell'avventura, no? Per chi fa questo mestiere. Proprio per aver fatto questa esperienza hai avuto un'opinione riguardo all'ambiente olimpico, parlo dalla parte del giornalista, dice sì, però è vero, è difficile seguire i vari appuntamenti, c'è grande frenesia, ma non c'è nulla che assomigli al clima del Giro d'Italia. All'Olimpiade basta il fatto che sei nello stesso posto, la stessa città per 2 settimane, hai tutte le comodità possibili, sala stampa, sei aggiornato, conosci quali sono le strade, gli appuntamenti. Il Giro d'Italia è avventura allo stato puro, invece è esattamente così. Bene, adesso siamo pronti per passare oltre, attendiamo le vostre risposte, poi vi daremo il nome del vincitore. Voci dal Giro. Passare oltre significa, sempre dal Salone del Libro di Torino in diretta, tornare agli ascoltatori e finalmente la telefonata che stavo aspettando. Luca da Faenza, eccomi qua. Ecco, non perché è Luca da Faenza, con tutto il bene che le voglio, ma per l'argomento sì, di chi sta per parlare. Immaginavo di non essere così sopravvalutato. Comunque io vi saluto innanzitutto, che siete tra i 2 migliori che sono in circolazione tra radio e TV. Aprivo una piccola parentesi: 79 euro di multa potrebbe essere le strisce pedonali o la ZTL, ve lo dice un grosso esperto e contribuente dei comuni. Arrotondato a 80, però ci sta, ha ragione. Cos'è? 79. Strisce pedonali o ZTL? Però ZTL a San Siro no, strisce pedonali sì. Strisce pedonali sì. Sì, sarà quello. Forse perché sono rossoneri nel giorno dello scudetto della Juve, forse le ha fatto anche la punta per questo. Eccola. Perdonatemi questa battuta agghiacciante. Io una cosina volevo rappresentare. Sì. Mi dicono, io non ho visto perché poi faccio l'arbitro di calcio, per cui oggi ero impegnato in un campo di campo dilettantistico. Però com'è andata? È andata, io poi oggi facevo il guardaline, purtroppo l'arbitro si è fatto male e la partita è stata sospesa, una partita di promozione in Emilia Romagna, capita anche questo, comunque nulla di grave, per cui anzi saluto anche l'arbitro della sezione di Ferrara e gli faccio il mio più grande bocca al lupo per il prossimo. Che infortunio ha avuto l'arbitro? Ma ha un dente, ha avuto evidentemente il sestac, sì, probabilmente il dentista avrà lavorato malino e quindi dopo è andato giù il dente. Giuro che questa è la più bella di tutte, mi mancava. Cioè, partita in promozione sospesa. Io ti stavo dicendo, Andrea, ma che domanda è? Avrà avuto infortunio muscolare? Scusa, non è che c'era un pugno di un giocatore che ha fatto saltare il dente all'arbitro? No, ho visto, non ci sono stati contatti, per cui è andato giù un ponte, via. Mi ha sorpreso abbastanza. Io volevo dire questo, perché siccome sono un grande facebookiano, ho visto già molti miei amici scatenati su Facebook a dire al Manchester City hanno regalato lo scudetto, qualcuno ha parlato anche di vergognosa messa in scena del QPR che una volta saputo che era salvo, sembra era quasi salvo. Che abbia lasciato andare. È ovvio che può darsi che ogni mondo sia paese, è ovvio dal mondo anglosassone questa cosa qui non ce la si aspettava. Io però non ho visto le immagini, per cui chiedevo se voi avete avuto questa impressione, a meno che averle viste anche noi, ne abbiamo mica visto, adesso stiamo aspettando che qualcuno ce le racconti. Il primo ascoltatore che ci chiama, Luca da Faenza, che è simpaticissimo, non ha visto niente come noi. Anzi quando ti ha salutato con tanto entusiasmo era perché si aspettava che tu ci raccontassi cosa ha fatto il Manchester. Invece ho deluso, ho mandato l'arbitro a casa per il dente, ha sospeso una partita, non ho ancora saputo nulla di copiare, Luca, ti vogliamo tanto bene ma non ci aiuti, mi spiace. Però detto questo è un po' il dubbio che da bravo italiano medio ho avanzato anch'io, esatto, insomma, bravo italiano medio qualificato, però io mi sento un italiano medio qualificato, ma che qualifiche l'italiano medio, basta, no, ma dicevo, sì, dimmi tu due cosine così per spaziare, oltre ad aver lasciato il tarlo del dubbio di questa così italianite in Premier. Io sì. Due cosine, pallacanestro, che sono un grande fanatico, un grande tifoso della Schiavolini, io due baioccacci sulla Schiavolini che elimina Cantù li voglio mettere. Anch'io e sugli europei, lancio un'altra profezia, attenti alla Svezia. Chiudo con questa chiosa, sì, guarda, due baiocchi sulla scavola li metterei anch'io, che non sono uno scommettitore. Ma quanto la danno? Non lo so, non ho idea, però Cantù è una squadra con tanti problemi, è anche vero che in due settimane magari qualche problema fisico si risolve, però la Schiavolini è esattamente la squadra che non vorrei mai avere di fronte nei playoff. La Svezia, vediamo, mi sembra non ho tanti elementi per poter confermare questo. Io son convinto che la Svezia, che nel girone con Ucraina, Francia e Inghilterra, anche perché l'Inghilterra è allenata da Oxon, francamente faccio fatica a considerarla molto competitiva. La Francia non mi sembra che sia particolarmente così. No, non lo è. Vediamo come va lo stomaco di Ibra. Vediamo come va lo stomaco di Ibra e poi... Esatto. Può essere. Un ottimo dietologo e la Svezia può fare il risultato. Io, ragazzi, risultato. Vi abbraccio, vi saluto, siete i numeri uno. Grazie Luca da Faenza. Ma hai visto, comunque da bravo italiano medio, ti dicevo, un minuto alla fine. Sotto 2-1 in pieno psicodramma, immaginati cosa c'era nella testa nella pancia dei giocatori e dei tifosi del Manchester City. Eri contento perché all'ultima giornata il Manchester perde lo scudetto, poi dici ma sono italiani, no, guarda che sorpresa. Io ero contento? No, ma sì. io facevo il tifo per il City, però il 90° se no la perdesse. Ma infatti ero mezzo disperato, cioè dicevo, ma guarda, ma possibile, ma guarda, il 5 maggio del Manchester City, ultimo minuto, sotto 2-1, devi vincere, gli altri stanno vincendo, bim bom bam, non 3 minuti di recupero, si hanno due gol. A me, che sono il classico italiano medio, un sospetto viene, non so a voi. Eccoci qua di nuovo dal Salone del Libro di Torino, ci stiamo divertendo molto, purtroppo siamo quasi in chiusura di trasmissione, abbiamo ancora 9 minuti per la cronaca. Tu che libro stai leggendo? Io che libro sto leggendo? Le avventure di Topolino. Visto che lo chiedi sempre ai redascoltatori. Sto leggendo i racconti di Sepulveda. T'ho sorpreso, eh? Bravo. Grazie. Dunque, Filippo Maria Ricci, chissà che libro sta leggendo? Le avventure di Mourinho alla Spagna. No, ho letto due libri. Cioè? Addirittura? Vai a coppia? No, perché, sì, insieme. Uno mezzo per lavoro, che è la vita di Edurne Passavant, la prima donna a salire sui 14.800, che è una spagnola, però ha scritto il libro in italiano. Ah, allora, siccome la devo intervistare, mi sono letto il libro. Molto, certo. Molto interessante. E l'altro? Cioè, ha scalato 14.800 e anche tentato di togliersi la vita. Quindi, insomma, un personaggio... interessante. E poi sto leggendo l'ipnotista italiano. E poi? L'esorcista. Sto leggendo l'ipnotista. Ah, l'ipnotista. Di una coppia svedese. Molto bello, un thriller psicologico molto bello. Ah, però, l'ipnotista. Mourinho. Adesso andiamo a Mourinho. Mourinho l'ipnotista, ecco perché lo leggi. Sì, ci sta, mi piace, non ci avevo pensato, perché cerco di pensare il meno possibile a Mourinho quando leggo altre cose. Io ti leggo sulla Gazzetta, se ti vedo scrivere l'ipnotista ti chiediamo copyright di Andrea Zorzi, anzi lui perché l'ha detto va bene, prima. Va bene, senti, ma senti una cosa, ma tu hai visto il Manchester City? Sì, perché sono in vacanza. Finalmente uno che ha visto il sul divano, mi allora, sono visto il Manchester City. Hanno fatto il biscottone? No, due cose, quando tu hai detto quella frase ero già in collegamento, quindi ti ho sentito. Io penso due cose: uno, l'immensa stanchezza del QPR, proprio non riuscivano neanche a respirare, e secondo, Filippo, però un minuto dalla fine. Quando gli arriva il risultato dello Stoke, il gol dello Stoke cambia completamente il pomeriggio, cioè loro anche perdendo si salvano, a quel punto è inutile stare lì a fare gli eroi come stavano facendo prima. quindi ci sono due fattori, insomma, per me comunque la stanchezza era enorme e alla fine perdi, ti salvi uguale. Va bene, poi ci dicono che siamo i soliti italiani, però se lo fa una nostra squadra scatta il, no, scatta noi, il calvario, eh? Noi pensiamo sempre male, dai, cioè, non si può pensare sempre male. Ho capito, però se questi un minuto dalla fine arriva la notizia e smettono di giocare, cioè poi chi vince lo scudetto, che è Mancini, e siamo tutti felici, io sono molto contento, è Mancini e Balotelli, e c'è chi invece non lo vince, che è lo United, che non sarà così contento della resa senza condizioni del QPR. Vabbè, però insomma, noi non abbiamo visto l'altra partita, magari quegli altri si sono arresi ancora di più, sì. Lì a Sunderland. Adesso non ti seguo tanto. Non mi segui? Vabbè. No. È un complottista sì. Ipnotista qui. Ipnotista complottista, dai. Intanto l'ipnotista, quello vero, stasera può arrivare a 100 punti. Credo che ci tenga a questa soglia, sì, Mourinho, sì. No? E poi c'è anche un altro piccolo record in ballo che non è male. Se Ronaldo segna, sì? Ha fatto gol a tutti gli avversari della Liga. Ah sì? Cosa che non è mai successa. E quindi ci sono in ballo, diciamo. Ci sono in ballo dei record, e i cannibali tenteranno di infilare i denti nel collo di questi record. Ma sì, è una partita così allegra col Mallorca. Sì. Filippo, una curiosità, tu sei un grandissimo appassionato e conoscitore del calcio africano. Quando è il prossimo viaggio in programma per quel continente? Questa volta è facile, perché c'è già un'altra Coppa d'Africa, qui ormai è stupendo, la giochiamo, parlo proprio al plurale, la giochiamo ogni anno adesso. Quindi l'anno prossimo, nel 2013, c'è già la Coppa d'Africa di nuovo, perché no, la vogliono spostare sugli anni dispari per non dare fastidio a europei o altre cose. Ah. E quindi in gennaio c'è già un'altra Coppa d'Africa in Sudafrica, e se Dio fantastico vuole, e soprattutto il giornale. Io la giocano un po' quando gli pare, insomma, la Coppa d'Africa, sì, però, quando gli viene, quando gli gira, giocano una, sì, una Coppa d'Africa e via, si parte per l'Africa. Coppa d'Africa, via. Grazie Filippo. A voi. Grazie a Filippo. Maria Ricci, che non mi segue su questo discorso molto serio. Va bene, meno male che ogni tanto ti stoppa. Ma no, ma scusami, sei un complottista, allora, sei. No, ma allora, mettiti lì, cioè. Ma non mi metto questi, lì. Ma perché no? Ma se succede in Italia, ma sai cosa il pieno che viene fuori? Ah, certo. Cioè, saltano fuori gli ascoltatori dai cornicioni. Anche perché Mansur, te l'immaginavi già con la valigetta. Lì a bordo campo, quanto viene QPR? Quanto mi compro anche quanto lo viene? Stadio. No, ma scusa, questi smettono un minuto dalla fine, smettono di giocare, prendono due pere, il City vince lo scudetto e siamo qua con le sciarpe, però lo United lo perde. E lo fanno gli inglesi, allora io sono un complottista. Lo fa una squadra italiana. È vero. Grazie. Alessandro Milano. Alessandro l'avrebbe fatto anche lui. Roberto da Gorgonzola. Direi proprio di sì. Che se fosse capitato in Italia e io fossi un tifoso del Manchester United, sarei incazzatissimo. Questo nero. È sicuro. Nero e duro. No, ma sicuro, ma poi, cioè, in Inghilterra va bene tutto perché appunto sono inglesi. Noi prima un ascoltatore ha detto: beh, meno male che c'è stata sta l'ennesima grande del calcio scommesse, così abbiamo visto un finale di campionato pulito, che poi io anche su questa pulizia sul fuoco non ce la metterò mai. No. Però al di là di questo e della mia malignità, un atteggiamento di questo tipo da parte di una squadra italiana per una partita che vale lo scudetto, apriti cielo. Certo, sicuro. Datemene atto una volta santa, che Andrea Zorzi. Va bene, te ne do atto. Mi critica sempre. Dimmi, Roberto. Comunque, io parlavo appunto sempre di Milan. Milan, sì, per dire le squadre italiane che giocano per lo scudetto in Italia e devono fare la Coppa dei Campioni. Sì. Bisognerebbe capire, a gennaio dovrebbero decidere gli allenatori se voler giocare il campionato o giocare la Coppa dei Campioni. Il Milan quest'anno ha cercato di giocare la Coppa dei Campioni e ha perso il campionato. Probabilmente se avessero perso 5-0 a Londra contro l'Arsenal, probabilmente il campionato l'avrebbero portato via loro. Ma anche qui è difficile dirlo, cioè è difficile avere una controprova. È vero che in finale di Champions League troviamo due squadre che non hanno vinto i rispettivi campionati, anzi nel caso del Chelsea sono andati molto lontani da questa vittoria. Ha mollato però sempre tutti prima. L'unica squadra è stata l'Inter ultimamente a vincere il suo campionato e vincere la Coppa. E infatti è stato un caso. È molto difficile. Onestamente, anche se con le rose chilometriche che gli allenatori devono gestire, si trovano di questi tempi, puoi anche mettere in preventivo la possibilità di fare entrambe le strade con una differenza essenziale. La Champions League è una corsa su 100 metri, il campionato è una maratona, c'è una differenza fondamentale. Se tu dici punto alla Champions, a me viene da ridere, perché la Champions è un torneo talmente aleatorio che è una specie di suicidio. Soprattutto allora veniamo su Milan. Quello che è successo quest'anno: a un certo punto il Milan aveva i giocatori contati. Lo so, che Roberto, si rompevano facilmente hanno deciso di puntare a giocare la Champions pur non essendo attrezzati per farlo in maniera evidente. Facciamo così, magari torniamo a riparlarne domani anche del QPR e dello scudetto di Mancini. Ciao Giorgi, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Presto. Grazie.